Linee d'ombra di Matteo Caccia. Nel quartiere tutti conoscevano la storia dello scazzanariello e tutti ci dicevano che sì, la gente c'era, stava un po' di tempo e andava via, però tutti quanti poi hanno avuto fortuna e un cambiamento di vita. Una volta trasferiti ci accorgemmo che quando andavamo nei negozi del quartiere per fare la spesa e dicevamo dove abitavamo, tutti ci guardavano in modo strano. Storie di case stregate e di salvataggi misteriosi in una puntata che si intitola Folletti e Amuleti. Vieni qua! È la seconda volta che mi hai assassinato. Io? Quando? Dove? Perché? Quando, dove, perché? Sei andato dal giudice a dirgli tutte cose in tuo favore, gli ho detto. Ah, che sì? sei un tipo gioviale, che non hai nessuna cattiva fama, un porta fortuna. Un porta fortuna? E allora perché mi hai licenziato? Me lo domandi pure, ma io lavoro con i fuochi artificiali, Rosario mio. È una cosa pericolosissima. E poi tu c'è la mano pesante. C'ho la mano pesante, Lo riconosci che c'ho la mano pesante? Come? No, perché non gli hai detto al giudice che io c'ho la mano pesante? Perché non gli hai detto al giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono nel velo della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò. E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E quella fu la cosa tua peggiore. E non mi hai cacciato via, figlio d'un cane. E non hai raccontato a tutto il paese che io sono un oiettatore. Ma non è vero. È vero. Sono un oiettatore. No. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice. Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un oiettatore? Sì! Rosariuccio, no! Dico tutto quello che vuoi! Anatema a te! No! Abbassa quella mano! Anatema ti colga! Anatema! La voce, quella inconfondibile, quella di Totò, in una interpretazione che è passata alla storia, perché ha a che fare con una novella, che è un racconto storico di Luigi Pirandello, che è La Patente. Totò interpreta questo iettatore che appunto, di cui non ricordo il nome, poi più tardi magari faccio una veloce ricerca, che semplicemente porta sfortuna e comincia a sfruttare questa sua caratteristica, diciamo così, al punto che vuole essere patentato, vuole avere la patente di iettatore, non vuole semplicemente che si dica oh, sono uno che porta sfortuna, no, vuole essere verificato. Perché? Perché attraverso questa patente lui ci può guadagnare dei soldi. Si intitola Folletti e Amuleti la puntata di oggi, per questo abbiamo iniziato con questa storia, abbiamo iniziato con questo estratto preso da Totò e dalla patente. Ci sono delle storie che ci arrivano ogni tanto, che sono al confine tra il credere e il non credere. Davvero la linea d'ombra è, boh, sarà vero, non sarà vero. Ma in particolar modo nella prima storia che ci è arrivata oggi, che vede come protagonista uno strano essere, un folletto, che viene chiamato lo Scazzamariello, poi sentiremo meglio dalla storia, non si capisce nemmeno alla fine se questa storia è vera oppure no. Ci piace raccontarla perché la presa di posizione dell'autore, del nostro ascoltatore, è di per sé critica. Però proprio in tutte quelle cose in cui la linea di confine tra il vero e il non vero, vedere gli extraterrestri e non vederla, vedere delle presenze vicino a sé e il non vederla, sono molto labili questi confini, e alle persone scettiche come me, ad esempio, è facile che invece quel confine diventi un muro, per cui si dice, io sono prima a dire, non esiste, è suggestione, sono cose che si raccontano. Ecco, in realtà leggere storie come queste, in cui lo stesso autore dice, io l'ho visto, quella cosa lì, l'ho vista, c'era, poi vai a sapere se era vera oppure no. Però io mi ricordo di averla vista. Ecco, quella apre una piccola finestra che ti fa capire che spesso e volentieri siamo noi a vedere delle cose che magari non ci sono, siamo noi a sentire delle cose che magari non ci sono, ma il fatto che non esistano, che non ci siano, non vuol dire che non esistano. Non so se mi sono spiegato bene in questa cosa, se mi sono attorcigliato. Come al solito le storie raccontano sempre molto meglio di qualsiasi spiegazione, e quindi ci apprestiamo ad ascoltare questa puntata, l'ultima puntata di questa settimana della seconda stagione di Linee d'Ombra, che è cominciato prestissimo, siamo proprio all'inizio di settembre, e siamo felicissimi di avere le vostre storie che continuate a mandarci a lineedombra@radio24.it. Vi ricordo però anche che da quest'anno noi raccogliamo delle storie vocali, dei messaggi vocali che hanno a che fare con Linee d'Ombra, che ascoltiamo che ascolteremo più in là nella terza parte del nostro programma. E quindi, se per caso state attraversando una linea d'ombra in questo momento, che può avere a che fare anche col surreale, con la realtà e con l'irrealtà, con il credere e con il non credere, ma può essere qualsiasi tipo di linea d'ombra, quindi un trasloco, un trasferimento, una storia d'amore che sta finendo o è finita da poco, un lavoro che state cambiando e non avete il tempo e il modo per scriverla perché magari è ancora fresca e volete raccontarcela, bene, noi siamo felici di ricevere un vostro messaggio vocale, un vostro audio al 331 57 55 721. Lo ripeto, 331 57 55 721, in modo che ci raccontate a voce qual è la linea d'ombra che state attraversando, altrimenti vi mettete comodi e noi cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linea d'Ombra. Avevo 7 anni e la sfortuna aveva deciso di bersagliare me e la mia famiglia. Sono nato in un paesino di montagna dell'Italia meridionale. A 2 anni ho perso mio padre e così siamo rimasti soli. Mia madre, 2 sorelle un po' più grandi di me e io. A 5 anni ho iniziato a frequentare la scuola elementare nel mio paesino e ho trovato dei compagni che mi hanno aiutato a superare lo shock causato dalla perdita di mio padre. Quando mia madre fu costretta a trasferirsi nel capoluogo della mia provincia perché le mie sorelle dovevano frequentare la prima media e nel mio paesino c'erano solo le scuole elementari. Fu per me un passaggio traumatico per diversi motivi. Il primo è stata la grande difficoltà a trovare una casa dove abitare. Sì, era nel periodo del dopoguerra e una buona parte delle case erano state distrutte o lesionate. Mia madre era maestra elementare, le sue possibilità economiche erano piuttosto scarse e riuscì a trovare solo una stanza con uso cucina in cui noi 4 dormivamo nello stesso letto matrimoniale, 2 dal lato della testa e 2 dal lato dei piedi. Nella stessa stanza, in un letto singolo, dormiva la figlia della padrona di casa. La mattina si era più stanchi di come si era andati a letto la sera. Il secondo problema è stato con la scuola. Il primo trimestre della seconda elementare avevo frequentato una scuola pubblica dove venivo accompagnato da una persona amica. Mia madre infatti non poteva accompagnarmi perché usciva di casa alle 7 per raggiungere la scuola dove insegnava, che si trovava fuori città. Dopo qualche mese questa persona non mi poté più accompagnare e allora mia madre mi iscrisse a una scuola di suore che, non essendo molto distante da casa, potevo raggiungere solo a piedi. Questa scuola era frequentata dai figli del fior fiore della città. Per me furono un incubo quegli ultimi mesi di scuola. In classe eravamo in 63 e a me toccò il 12° banco della fila centrale, essendo arrivato a scuola iniziata. Non riuscivo a leggere sulla lavagna e sentivo poco. Per la suora era difficile tenere la disciplina dato l'alto numero di scolari, per cui doveva punire sempre qualcuno e quel qualcuno ero sempre io. E così finivo fuori dalla porta o dietro la lavagna. I compagni non erano gentili con me perché avevo un accento diverso dal loro e perché non potevo permettermi quello che avevano loro. Nel frattempo, mia madre, donna ambiziosa e volitiva, cercava una diversa sistemazione perché si rendeva conto che non si poteva andare avanti in quella situazione. Ad esempio, a parte la notte, come si poteva studiare in 3 in una stanza? Siamo stati circa un anno, siamo stati molto male, sia quando si dormiva, perché 4 in un letto era molto molto complesso poter dormire, e sia perché non si poteva assolutamente studiare, che dovevamo, le mie sorelle e io dovevamo studiare, tutti studenti, e quindi mia madre doveva preparare anche i compiti per il giorno dopo, essendo insegnante elementare, tutti in una stanza sarà stato 4 metri per 4, non credo di più. Così venne a sapere che si vendeva un appartamento a un prezzo stracciato molto, ma molto meno del valore di mercato. Si trattava di un appartamento al terzo ed ultimo piano, senza ascensore, costituito da 3 stanze, bagno e cucina. Le stanze erano una dentro l'altra e le finestre erano alte a livello del soffitto. La finestra della cucina era grande, con un davanzale alto e profondo, e illuminava tantissimo la cucina. L'appartamento costava 600.000 lire, più o meno 10.000 euro di oggi, e si trovava nella parte vecchia della città, in un vicolo dietro la cattedrale. Mia madre l'acquistò e ci trasferimmo appena finita la scuola. Donne, donne, donne, che l'amore trasformerà. Mamme, mamme, mamme, tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore per un bimbo che nasce, quante gioie e dolori. Sono tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuore. Sono le bellezze di un bene profondo fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. Una volta trasferiti ci accorgemmo che quando andavamo nei negozi del quartiere per fare la spesa e dicevamo dove abitavamo, tutti ci guardavano in modo strano. Mia madre pensava che dipendesse dal nostro accento o perché eravamo nuovi del quartiere, ma un giorno finalmente un negoziante ci chiese se anche noi avevamo visto lo scazzamariello sul davanzale della cucina. Un folletto che ogni tanto appariva proprio lì. Mia madre rimase sbalordita e capì come mai l'appartamento fosse costato così poco. Il negoziante aggiunse di non preoccuparsi perché il folletto aveva portato fortuna a tutte le persone che avevano abitato in quella casa. Noi fratelli abbiamo visto più volte lo scazzamariello che appariva nelle giornate di sole ed era quasi trasparente, alto non più di 30 centimetri. Solo mia madre non ha mai voluto ammettere di averlo visto. Era circa di 30 centimetri, cioè in questo momento lo vedo, ce l'ho davanti. Era di circa 30 centimetri, pressoché trasparente. Si muoveva come un ballerino e cioè non camminava, però ballava, come se fosse ballava su questo davanzale. Per me poteva essere un folletto, sì, un folletto. Guardava verso di noi e stava lì in movimento e poi dopo pochi minuti scompariva, non lo vedevamo più. Dopo qualche tempo cambiamo casa con la scusa che quella dove stavamo era troppo buia. Quello stesso anno mia madre fu trasferita in una scuola centrale e io potei andare a scuola con lei, come avevo sempre sognato. Nella nuova scuola trovai compagni gentili che mi volevano bene. La nostra vita migliorò tantissimo da allora e potei raccontare solo cose positive. Affittammo la casa dello scazzamariello ad un negoziante di elettrodomestici che navigava in cattive acque e che aveva difficoltà a pagare l'affitto, anche se era molto molto basso. Dopo qualche mese le cose anche per lui cambiarono. L'anno successivo la figlia partecipò ad un importante festival musicale e lui poté comprarsi l'appartamento e aprire anche un secondo negozio. Dopo alcuni anni la palazzina fu considerata pericolante e rimase disabitata per un lungo periodo. Pochi anni fa è stata ristrutturata, ma la finestra dello scazzamariello non c'è più. L'ultimo piano è stato completamente modificato. Io, dopo il liceo, ho lasciato la città, mi sono trasferito a Roma, dove abito tuttora. Raramente ritorno nella città dello scazzamariello e cerco la finestra che non c'è più. Vedo comunque i due negozi di elettrodomestici che sono sempre lì e che mi ricordano quel periodo trascorso in quella casa che non potrò mai dimenticare. Ora, non posso dire se lo scazzamariello lo abbiamo veramente visto o se si è trattato di un'allucinazione. Di sicuro, aver abitato in quella casa ci ha cambiato la vita. Revolution. We are spirits in the mountains. Questa quinta puntata, questa puntata del venerdì di Linee d'Ombra, la prima settimana di Linee d'Ombra, si intitola Folletti e Amuleti, e il motivo lo avrete capito, immagino, l'avrete capito dalla storia di Giuseppe, che è una che è una di quelle storie che, per quanto riguarda il reale e l'irreale, ciò che è vero e ciò che è falso, è la linea di confine che sta lì in mezzo, è una delle storie più belle che ci sono arrivate. Pronto, ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Come stai Giuseppe, tutto bene? Bene, tutto bene, sì sì, sono ancora in vacanza. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento mi trovo in un posto incantevole, circondato dalle montagne. Però tu vivi a Roma, giusto? Sì sì, però vivo a Roma. Senti, invece più o meno la casa dello Scazzamariello si trovava nel sud Italia, giusto? Era più a sud? Sì sì, in Puglia. Ok ok, quindi tu sei di origine pugliese. Sì sì, sono nato in Puglia. Senti, una cosa che io non ho capito dalla tua storia è: ma voi avevate paura oppure no di questo Scazzamariello? Ma no, io e mia sorella grande no. Mia sorella più grande di me, ma diciamo la seconda dei tre fratelli, sì, aveva molto paura, e quando noi lo vedevamo lei scappava in altre stanze e si nascondeva. Senti, più o meno quanto era grosso questo cosetto? Ma era circa un 30 centimetri di altezza ed era quasi trasparente, si muoveva in continuazione ma sempre su se stesso, come se fosse una marionetta, anche se era assolutamente un folletto, perché aveva gambe, braccia, testa, era animato. Ma scusami, invece un'altra cosa che vorrei capire è: voi ne parlavate in casa di questa cosa, cioè il fatto che qualcuno lo vedeva, qualcuno no? Sì, sì, noi fratelli sì, mia madre cercava di evitare, era molto occupata di questo fatto, infatti diceva non è vero, non è vero, non è vero, io non l'ho visto, però mia madre alla prima occasione ha cercato di andare via da quella casa, insomma era preoccupata anche lei, oppure aveva paura anche lei. Però poi in realtà questo Scazzamaria lo portava bene, mi sembra di capire. Sì sì, infatti a noi è portato bene, e chi ce ne ha parlato ha detto che tutti quelli che hanno abitato prima di noi o anche dopo di noi ha sempre portato bene, quindi alla fine è stato un bene abitare in quella casa. Giuseppe, senti, però tu stesso nella storia chiudi dicendo: ora io non posso dire se lo Scazzamariello l'abbiamo veramente visto o è stata un'allucinazione. Oggi, a distanza di 70 anni, tu che cosa pensi veramente? Sai, con la maturità di un uomo adulto, penso che sia stata un'allucinazione, però se è stata un'allucinazione, è stata un'allucinazione per molte persone, per molte famiglie che hanno abitato lì, che ne hanno parlato. Almeno io sono religioso, per cui non posso pensare che sia qualcosa di realmente esistente, almeno fosse. Ho capito. Potrebbe essere un angelo mandato in terra per aiutare noi, questo sì. Senti, Giuseppe, tu che cosa hai fatto poi nella vita? Sono andato in ingegneria informatica, ho lavorato per prima 35 anni in una grande multinazionale di computer e poi ho fatto 12 anni consulente, adesso sono in pensione. Sei in pensione. Senti, invece so, me ne parlava Anita, ma me la dicevi anche tu poco fa fuori onda, tu hai quel periodo in cui tu hai studiato nella scuola delle suore, che è stato un periodo davvero traumatico per te, addirittura mi diceva Anita che di fatto tu sognavi quel periodo ancora di notte, ancora recentemente. Sì, sì, sì, sì, è vero, proprio perché ero praticamente appena arrivato da un paese di montagna, parlavo un po' diverso dagli altri ovviamente, e non mi potevo permettere quello che gli altri si potevano permettere. Io andavo a scuola da sola perché mia madre insegnava fuori città, ed eravamo il 63 in classe ed io erano stati assegnati il 12° banco della fila centrale, per cui da sola aveva grande difficoltà a tenere la disciplina e sempre doveva punire qualcuno, ed ero sempre io. Ed eri sempre punito e ero mandato o dietro la lavagna o fuori dalla porta, e le stesse, i compagni l'hanno fatto tantissime angherie. Sì sì, ma si sente che nonostante siano passati così tanti anni è un ricordo ancora molto vivo. Questo appunto, un uomo di oltre 70 anni che si ricorda così tanto un avvenimento di quel periodo dovrebbe fare pensare, credo, a chiunque abbia a che fare con dei bambini, insegnanti ma non solo, genitori, zii o educatori, che davvero ci sono delle cose che a noi magari sembrano poca roba e che invece lasciano un segno. Sto dicendo una banalità, però lo dico anche a me stesso. Sì, guarda, stai dicendo una cosa giustissima, è proprio questo che io cerco di dire a tutti, di trattare i bambini molto meglio di come si trattano i grandi, perché sui bambini qualunque cosa incide molto molto molto forte, sia le cose positive che le cose negative. Giuseppe, ti ringrazio molto per questa chiacchierata che abbiamo fatto e per la storia dello Scazzamariello, che quando l'ho letta quest'estate mi è entrata nel cuore immediatamente. Ti spero bene in forma, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao Giuseppe, grazie mille. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say. Isn't it good? Look at the sky, look at the river. Isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day, questa dello Scazzamariello è una di quelle storie che quando l'abbiamo letta tutti quanti in redazione abbiamo gioito. Quando facciamo la lista, quando ci mettiamo lì, prendiamo la lista e diciamo abbiamo letto questo, quest'altro, quando è arrivato questo dello Scazzamariello abbiamo detto: beh, ma questa è straordinaria, a prescindere dal fatto che sia stata un'allucinazione oppure no. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra in una puntata che si intitola Folletti e Amuleti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Anche quest'anno peschiamo alcune delle nostre storie tra le storie di quello strano archivio che sono le serate dal vivo di mio cugino, che Mauro Pescio tiene a Roma ormai da parecchi anni, dove invita 4 persone a raccontare delle storie incredibili, di cui sono 3 sono vere e una è falsa, e il pubblico deve indovinare qual è quella falsa e quali sono quelle vere. Ecco, la storia che stiamo per raccontarvi, però, secondo la consuetudine di Linee d'Ombra, è assolutamente vera e l'ha raccontata dal vivo un signore che si chiama Riccardo De Marsanic, lo ha fatto nello scorso dicembre e questa è la sua storia. State con noi. Questa storia riguarda la mia famiglia e in particolare mio padre. Siamo sul finire degli anni 50 e siamo a Napoli, dove io sono nato e ho vissuto i primi anni di vita. Mio padre era il direttore amministrativo in un ospedale proprio della città. Con lui lavorava un altro signore che si chiamava M, lo chiameremo così. Ovviamente il signor M aveva un nome ed un cognome, ma qui lo chiameremo solo M per rispetto e per scaramanzia, e presto capirete il perché. Il signor M faceva il lavapiatti in ospedale, ma parallelamente studiava in università. era di famiglia modesta e aveva intenzione di evolversi, di evolvere la sua situazione. Ma M era specialmente famoso per un'altra sua peculiarità piuttosto singolare. M era uno iettatore e tutti lo temevano. Uno si aspetta lo iettatore che, come dire, porta soltanto sfortuna, lancia anatemi. No, M lanciava anatemi tremendi che arrivavano sempre a segno, ma, come dire, delle volte dava delle benedizioni, quindi favoriva le persone a cui voleva bene. Nonostante fosse relativamente giovane, M era sempre vestito di tutto punto, con la giacca e il panciotto neri. Lo indossava come una divisa, segno questo che prendeva sul serio la sua posizione all'interno della sua comunità. Per M questa sua attitudine non aveva nulla di inspiegabile, per lui era un lavoro vero e proprio. All'università andava molto bene. Mio padre commentava dicendo: "Che bravo ragazzo, lo vedi com'è studioso?" Ma la verità era che nessun professore si sarebbe mai sognato di bocciarlo. Se lo avessero bocciato, chissà cosa gli sarebbe accaduto. Sarebbero morti, di sicuro. A M, insomma, andava sempre tutto bene. Io lo conobbi un giorno in cui con mio padre e lui andammo in un ristorante sul lungomare a Mergellina. Dopo aver mangiato uscimmo senza pagare. Mio padre si allontanò in cerca della macchina ed M mi disse: "Hai fatto caso?" "A cosa?" risposi io. "Non abbiamo pagato." Io non mi ero accorto di nulla e allora M mi spiegò: "Sai, qua mi conoscono tutti e tutti i ristoratori sono contenti se vado da loro a pranzo oppure a cena e per rispetto fanno a gara ad offrirmi i loro piatti. Che vuoi farci?" Io allora ero solo un bambino, capivo e non capivo cosa stesse cercando di spiegarmi, ma ne rimasi molto impressionato. M continuò a lavare i piatti e a studiare e mio padre venne trasferito in un altro ospedale nel nord Italia. Quando si salutarono, M regalò a mio padre un piccolissimo cornetto d'oro da attaccare al cinturino dell'orologio. "Lo tenga sempre con sé," gli disse. "Questo cornetto la proteggerà." Mio padre attaccò il cornetto all'orologio secondo le indicazioni di M e il caso volle che dopo pochi mesi, dalle parti di Biella, ebbe un brutto incidente su un'auto di servizio. Quel giorno erano in macchina in due, mio padre e un'altra persona. Erano andati a ritirare delle damigiane di vino. Nell'incidente la macchina si ribaltò, le damigiane di vino si rovesciarono tutte sui sedili anteriori e il poveretto che guidava morì, mentre mio padre rimase del tutto illeso. Non appena si riebbe, si accorse però che aveva perso il cornetto. L'orologio era al suo posto, al polso, ma il cornetto era sparito. You got me walking, I'm walking from door to door. You got me walking, darling, I'm walking from door to door. My money left me. Oh, how I hate to see you go. It's lonesome in my bedroom, just me and my telephone. Morning. coming home. Passò ancora qualche tempo. Papà tornò a Napoli sempre per lavoro e di nuovo incontrò M, che nel frattempo si era laureato. Aveva fatto un concorso e, va da sé, lo aveva vinto. Ed era diventato, sicuramente anche grazie al fatto che nessuno aveva il coraggio di dirgli di no, un pezzo grosso di un ospedale di Napoli. Quando si incontrarono, papà gli raccontò dell'incidente e gli confessò che l'unica conseguenza era stata quella di perdere il cornetto che gli aveva regalato. Ma M aveva un'altra sorprendente spiegazione di quella strana sparizione. Va da M, dice: M, mi sono perso il cornetto. E lui dice: non se l'è perso. Dottore, il cornetto si è liquefatto nello sforzo di proteggerlo. Passarono ancora un po' di anni fino ad arrivare al 1963, quando tutta la mia famiglia si trasferì definitivamente a Roma. Anche questa volta mio padre andò da M a fare un ultimo saluto prima della partenza. M ne fu molto felice, regalò a mio padre un secondo cornetto e gli disse: «Dottore, io so che lei vivrà a lungo. Vedo per lei 50 anni di vita, fino al 2013, vedo, poi non vedo più». Mio padre visse a Roma per il resto della sua vita. Nell'autunno del 2013, ultra novantenne, si ammalò per spegnersi nel gennaio del 2014. Oh, Crystal Ball, Crystal. Questa storia, come vi dicevo in apertura, è stata raccontata direttamente dalla voce del suo narratore, Riccardo De Marsanic, alla serata di Mauro Pescio, che si chiama Mio Cugino, e davvero racconta quella linea d'ombra molto sottile tra la fortuna e la sfortuna, ma anche e soprattutto tra il credere e il non credere. La figura dello iettatore è tra l'altro una figura letteraria che conosciamo, se a scuola abbiamo letto quella novella di Luigi Pirandello che si chiama La Patente, in cui c'è il protagonista è questo Rosario Chiarchiaro, me lo ricordo perché l'ho cercato, mi ricordavo giusto il titolo, La Patente, il nome del protagonista no, che è un uomo che di mestiere fa lo iettatore. Tra l'altro, a proposito di letteratura, se di recente avete letto l'ultimo libro di Sandro Veronesi, Il Colibrì, in quel bellissimo libro che ha vinto il premio Strega nel luglio di quest'anno, tra i protagonisti appare proprio un amico del protagonista che si crede porti sfortuna, e lui si aggrappa a questa credenza e diventa uno iettatore di mestiere, e anche lui va in giro vestito di nero e frequenta le bische proprio perché viene pagato per portare fortuna o sfortuna alle persone. Insomma, leggete Il Colibrì se non l'avete fatto, che è un bellissimo romanzo, e ci troverete anche questa figura. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare l'ultima parte della settimana della nostra splendida storia seriale. Linee d'ombra. Nell'ultima puntata di questa settimana di Linee d'Ombra facciamo una piccola chiusura di questi primi 5 episodi della nostra nuova storia seriale. La nostra nuova storia seriale racconta la vita di Antonio Cocco, un giovane ragazzo veneziano che nel 1952 lascia Venezia, lascia la sua famiglia, una famiglia composta da tantissimi fratelli, una famiglia amorevole, perché qualcosa è nato storto a scuola, ha avuto uno screzio a scuola e lui decide di mollare tutto, va in Francia, solo che in Francia negli anni 50 se non hai documenti sei un clandestino, e quello che ti succede, come racconta Antonio nelle sue lettere, è che o ti fanno ritornare a casa ma devi fare 3 mesi di carcere, oppure ti arruoli nella legione straniera, e questo fa Antonio. Da quando parte comincia a scrivere delle lettere al padre. Le lettere sono state tutte depositate all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano dai fratelli molti anni dopo. È stata una storia, quella di Antonio, per tutta la famiglia Cocco molto dolorosa, e per alcuni dei fratelli ancora vivi è una ferita ancora aperta, ed è il motivo per cui noi siamo molto grati a loro, in particolar modo all'archivio che ci ha messo in contatto con loro, per questa possibilità che ci hanno dato, cioè di raccontare questa storia che, come già ho detto più volte, è un libro, si intitola Ridotta Isabel, lo trovate pubblicato La Terra di Mezzo se vi interessa. Questa storia noi ve la stiamo raccontando attraverso in primis le parole di Antonio, cioè le parole che Antonio scriveva in quelle lettere che spediva a casa, indirizzate principalmente al padre, in cui dapprima chiede scusa e poi comincia a raccontare quello che succede in quel luogo, prima in Francia, poi in Africa, dove viene addestrato nella legione straniera. E sono lettere piene di colpi di scena, lo scoprirete durante queste settimane in cui vi raccontiamo questa storia che, come sempre, Mauro Pescio ha raccolto e amorevolmente assemblato. Assemblato è un'altra cosa. Vi dicevo, questa storia però, proprio quando parte, dalla prima puntata l'abbiamo sentito, parte con una cartolina, in quel caso spedita da Marsiglia, in cui Antonio dice partiamo per la regione straniera. Quel partiamo sottintende che insieme a lui c'è un'altra persona, si chiama Paolo, è un suo amico. Paolo non farà tutta la sua strada, non partirà per l'Africa, rimarrà in Francia, e oggi cerchiamo di capire qualcosa di più su questo amico che è con lui, il compagno di fuga di cui Tony parla nelle sue prime lettere. Lui non è partito da solo, è partito con questo no, Paolo. Con Paolo Dri. Paolo Dri. Chi era? Era un ragazzo che abitava al di là del canale. Ed erano amici loro due? Loro due erano amici. Lui era, Paolo Dri era un po' più giovane di lui, infatti è partito che non aveva ancora compiuto 18 anni, ed è il motivo perché mio padre poi è riuscito a far tornare a casa. Ecco, infatti ti volevo chiedere, che fine ha fatto Paolo? Cioè è tornato? No, è tornato a casa, poi non so più nulla proprio. Ti ricordi qualcosa rispetto, cioè avevano avuto dei rapporti le vostre famiglie, la vostra famiglia Cocco e la famiglia di Paolo? Secondo me non credo.

Si chiude qui questa prima settimana di Storia Seriale. Vi ricordo che potete riascoltarla se avete voglia sul nostro sito linearradio24.it, alla pagina di Linee d'Ombra. Potete anche sentire, oltre a tutti i podcast e le puntate ovviamente, anche solo espressamente questa parte dedicata alla nostra storia seriale, alla storia di Antonio Cocco e della sua famiglia. Voi intanto approfittate di questo fine settimana per mandarci le vostre storie, linee d'ombra@radio24.it, un paio di pagine che raccontino una linea d'ombra che avete varcato, oltre la quale siete stati in qualche modo diversi. Se per caso invece la linea d'ombra la state vivendo in questo momento, potete anche scegliere di mandarci una storia raccontandocela a voce attraverso un messaggio WhatsApp audio al 331 57 55 721, la linea di confine in cui vi trovate ora. Siete proprio nel mezzo? Bene, un bel vocale, un paio di minuti, 331 57 55 721. Passate un buon weekend, noi ci sentiamo lunedì puntualissimi alle 3 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!